Ora ascolta il suono tante volte di seguito. Senti che sono due suoni diversi? Occorre saper articolare due suoni diversi. Prima più veloce, poi lentamente. Tutte queste cose probabilmente le sapevi già. Quello che forse non sapevi è che sono più suoni. Ascolta bene. Ascolta bene, ascolta bene. Ascolta bene, ascolta bene. Ascolta bene e diventa più varia e più interessante. Ora ascolta bene la differenza fra i due suoni. Prima lentamente, poi più veloce. Lei, lei, tu, tu, lei, lei, tu, tu, lei, lei, tu, tu, lei, lei, tu, tu, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei. Ora ascolta il suono tante volte di seguito. Senti che sono due suoni diversi? Hai capito benissimo. Tutte queste cose probabilmente le sapevi già. È grave. Ascolta bene. Ascolta bene, ascolta bene. Ascolta bene, ascolta bene. Questo è un suono aperto. Senti la differenza? Questo è un suono chiuso. Hai capito benissimo. Ascolta bene. La differenza fra i due suoni. Occorre saper articolare due suoni diversi. Prima più veloce, poi sai lei la differenza. Lento, lento, lento, lento. Senti la differenza?